2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 17 settembre, siamo in diretta anche oggi, bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Cerchiamo ogni weekend di raccontarvi e anche di raccontarci come la tecnologia ci sta cambiando la vita, ci ha cambiato la vita e sicuramente ce la cambierà molto nei prossimi anni. Sono le 15:35 minuti, saluto Pietro Lacorte che si occupa oggi della parte tecnica. Tra poco parliamo di Windows 8 e più tardi, come vi abbiamo anticipato, di intercettazioni. Naturalmente dal punto di vista tecnologico non entreremo in questioni di policy, di regolamenti, di filosofie. Ne parleremo con dei tecnici di altissima qualità. Più tardi vi invito anche a chiamarci proprio su questo tema per le vostre curiosità. Poco prima parlavamo con Carlo Genta mi ha detto: ma è vero che possono ascoltare le comunicazioni del mio telefonino anche quando il telefonino è spento? Leggende metropolitane, non so, lo chiederemo ai nostri esperti. Numero verde 800 24 00 24, potete anche comunicare con noi via email 2024, quindi 2024@radio24.it, oppure via sms 349 238 6666, o andando nella nostra pagina Facebook, cercatela scrivendo appunto 2024. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast della nostra radio, di Radio 24. Parliamo allora di Windows 8, il nuovo sistema operativo della Microsoft, che sarà disponibile dal prossimo anno. È stato presentato in anteprima nel corso di un evento che si è tenuto questa settimana negli Stati Uniti. E più che parlare del programma, delle caratteristiche, è interessante capire la filosofia che Microsoft sta seguendo per questo nuovo software, che descrive anche quello che sta succedendo nel mondo dei computer, che sono sempre più influenzati dai trend, diciamo, dirompenti di smartphone e tablet. Ne sa di più e ci aiuta oggi Luca Figini, che è responsabile di portatili e tablet. Luca, bentornato a 2024. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Parliamo di questo evento organizzato dalla Microsoft questa settimana, dedicato a Windows 8, che dal prossimo anno sarà l'erede di Windows 7, quindi il nuovo sistema operativo della Microsoft, che arriva a pochi anni dal debutto di Windows 7. Adesso si sono accelerati tutti i tempi. Sì, oramai quello che era una volta era un ciclo di sviluppo molto, molto ampio, si è velocizzato, perché comunque lo impone il mercato, nel senso che Windows 7 oramai ha 3-4 anni, non di più, e nel 2012 non supererà i 5 anni. E quindi vedrà già immediatamente arrivare il suo successore. Il motivo è molto semplice: i tablet hanno un po' sparigliato le carte sul tavolo e hanno un po' stravolto quelli che erano i vecchi sistemi di utilizzo dei PC, e quindi occorre rinnovare e perfezionare l'interfaccia. Noi diciamo Windows 8, non è detto che si chiamerà Windows 8. No, Microsoft ha presentato quello che noi chiamiamo oggi Windows 8 al Build, che è un evento per gli sviluppatori. E come tale, roba per i tecnici. Esattamente. E come tale ha dato un nome, come dire, indicativo di quello che sarà l'evoluzione del sistema operativo. Il nome probabilmente sarà più semplice, più friendly, un po' più fresco, un po' più come avviene su altri fronti. Oppure alla fine, non trovando di meglio, faranno Windows 8. O è sicuro che non sarà Windows 8? Non è ancora sicuro nulla, in realtà. È indicativo quello che tu dici, perché ci racconta di cosa sta succedendo sul mercato, cioè che oramai il modo con cui noi utilizziamo gli smartphone e i tablet sta cambiando e sta toccando anche un altro mercato, proprio nel modo con cui si utilizzano questi prodotti, cioè i computer portatili e i computer veri e propri. La parola d'ordine è touch, cioè tocco, interfaccia tocco, o c'è dell'altro? La parola d'ordine è interfaccia al tocco, la parola d'ordine è touchscreen, e quindi usare le dita. Questo rientra nella logica del visual computing, e quindi dell'interagire con il computer in maniera visuale, in maniera interattiva, usando le mani e non più mezzi esterni. È un'innovazione, un'evoluzione comunque imposta da Apple. Sì, Steve Jobs ci aveva visto bene. Ci ha visto benissimo con l'iPhone, il motivo per cui Apple è così avanti rispetto agli altri, perché ha avuto l'iPhone e ha trasportato l'esperienza sull'iPad. Ha talmente portato avanti questo discorso che oggi anche Apple è costretta, come dire, ad adeguarsi a questa evoluzione che è imposta, e quindi la logica di interazione anche dei Mac deve subire un ulteriore passo avanti, e quindi utilizzare le dita sul touchpad. seguendo questa logica inevitabilmente anche gli altri devono portarsi avanti, quindi devono iniziare a mettere in primo piano il display sensibile al tocco e lasciare un po' da parte tastiere e mouse. Quindi ci stai dicendo che Windows 8 è sicuramente una piattaforma che sarà utilizzabile con dei touchscreen, cioè i computer di domani, beh già oggi c'è qualche cosa ma molto poco, i computer di domani tu prevedi o comunque il mercato prevede che saranno tutti con uno schermo touch? Beh, quando si inizia a usare uno schermo touch poi è difficile tornare indietro. Ci si può tornare indietro magari perché in alcuni momenti bisogna scrivere o si ha bisogno del puntatore per fare certe cose, ma alla fine è troppo divertente e accattivante usare quel sistema. Sì, i computer di domani bisogna iniziare a ragionare su una logica di mobile computer e non più di portatili, tablet, eccetera. Bisogna capire in che modo questi sistemi si fonderanno e troveranno nuove forme di sviluppo. L'interfaccia che utilizza Windows 8 si chiama Metro, che è la stessa che utilizza Windows Phone, giusto? Sì, finalmente Microsoft ha trovato un'interfaccia divertente da mettere su un sistema operativo, perché finora Windows 7 era un po' nemico, un po' allergico al touchscreen. Metro è una rivisitazione più in grande dell'interfaccia di Windows Phone 7 e introduce questo concetto dei live tile, che sono dei mattoncini, dei quadratini interattivi, nel senso che cambiano le informazioni che vengono visualizzate, la disposizione, il colore, eccetera, in base all'aggiornamento che ricevono da internet. Per cui proprio si adeguano anche nella presentazione dell'interfaccia principale, si adeguano all'uso che uno fa del computer o dello smartphone. Telefono. Comunque c'è una linea che unisce il modo di interagire, di utilizzare uno smartphone, quindi dove c'è Windows Phone, e nel caso di Windows 8 la stessa cosa, comunque una cosa molto simile accade per il computer. Alla fine scomparirà Windows Phone, cioè ci sarà un sistema operativo unico. Molti sono pronti a scommettere che Windows 8 sarà una piattaforma unica. E non è un caso che, per esempio, a questa conferenza per addetti ai lavori Microsoft abbia fatto vedere il nuovo sistema operativo funzionare su processori ARM, che sono i processori, che è la piattaforma che oggi viene impiegata sugli smartphone e sui tablet. Sì, sì, diciamo, questo è un dato importante, perché fino ad oggi noi eravamo abituati ad un mondo dei computer dove l'accoppiata Windows con il processore Intel era molto forte. C'è qualche cosa AMD, ma fondamentalmente il grosso del mercato lo fa appunto Windows come sistema operativo e Intel come processore. Invece negli ultimi anni abbiamo visto svilupparsi così fortemente gli smartphone e i tablet, che invece utilizzano CPU, quindi processori basati su questa architettura di questa azienda intelligente inglese che è ARM. E quindi tu dici, già da questo capiamo che proprio l'architettura, il concetto che ci sta dietro è un po' diverso. Diverso, semplificato, più efficiente, più veloce. Io ho provato per esempio a installare il sistema operativo su un computer, su un netbook di fascia bassa, ed è velocissimo, interattivo, l'interfaccia è molto dinamica. Quello che sta succedendo è che si ritorna non più a quelle che erano una volta le alleanze fra hardware e software, quindi ci si tirava e si trainava, ma si ritorna a un concetto di utilizzo, quindi di interfacce, quindi di rispondere a un'esigenza nuova da parte del mercato. Quindi vedremo delle cose diverse sicuramente. Tu mi dicevi prima di iniziare la nostra chiacchierata che probabilmente, anche se può sembrare strano, il maggior concorrente di Apple, e quindi di iPhone, iPad, Mac, sarà ancora e sempre più Microsoft piuttosto che Google con Android. Per quale motivo? Sì, si ritorna una vecchia rivalità, quella di Microsoft e Apple, su un terreno diverso, che è quello dei tablet. Sì. Quello che succede è questo: Android non convince fino in fondo a livello tablet. È molto forte, molto eccellente sugli smartphone, ma a livello tablet non sembra ancora trovare una via giusta. Vedremo adesso con la nuova versione 4 che verrà entro la fine dell'anno. Apple continua a consolidare la sua quota di mercato, che è di circa 2/3 dei tablet che si vendono oggi. Quello che può succedere è che Microsoft, avendo in qualche modo appreso quello che è la necessità del mercato, avendo appreso quella che è la dinamica di sviluppo del mercato e avendo capito che bisogna puntare sulle app, su un ecosistema connesso, su tanti piccoli pezzetti che fanno un universo, ha realmente in mano la possibilità di arrivare magari dopo gli altri, quindi dopo Apple e dopo Google, ma ha una potenzialità migliore, nel senso che Microsoft comunque oggi può vantare 450 milioni di PC con Windows 7. Se ciascuno di questi, o anche solo una parte, dovesse fare l'aggiornamento a Windows 8, che arriverà inevitabilmente nel 2012... Avrebbe una fetta di mercato molto forte. E quindi tu dici l'aggiornamento potrebbe poi essere un passaggio verso poi il mondo tablet. Nel momento in cui anche dal PC una persona aggiorna Windows a Windows 8 e si abitua a quello e si abitua a Metro, di fatto Metro è tablet. Bene, Luca, adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, questa è 2024, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che nella seconda parte dopo GR24, dopo le 16, parleremo di intercettazioni dal punto di vista tecnologico, che cosa si può intercettare, pressoché tutto, dicono gli esperti, come ci si può difendere e soprattutto quali sono poi le modalità per aggirare queste contromisure, un po' la famosa lotta tra guardie e ladri, uno trova una soluzione, poi si trovano le contromisure per aggirarle, eccetera eccetera. Vi ricordo il nostro numero verde per intervenire proprio su questo tema tra poco, 824 0024, potete comunicare con noi anche via SMS 349-238-6666 oppure anche via email o Facebook. Stiamo parlando di un tema estremamente importante ed interessante, cioè quello di un nuovo sistema operativo che arriverà il prossimo anno di Microsoft, Windows 8, presentato oggi in anteprima in questi giorni negli Stati Uniti agli sviluppatori. È con noi Luca Figini, che è responsabile di una rivista che si intitola Portatili e Tablet. Luca, se ben capisco, Luca Figini collabora anche col Sole 24 Ore, insomma è uno della famiglia, se ben capisco una delle ipotesi è che Microsoft arrivi al mondo dei tablet partendo dal mondo PC, quindi sfruttando anche la potenzialità che tu ci citavi poco fa, questi 450 milioni di computer nel mondo che hanno installato Windows 7, mentre Apple ha rivoluzionato il settore smartphone per poi passare inventare questo nuovo segmento che sono i tablet con interfaccia touch. Quello che può succedere è che hanno fatto fare, come dire, lavoro sporco Apple, quindi hanno fatto creare un mercato, l'hanno collaudato, hanno visto quali sono le esigenze, Microsoft ha analizzato, aspettato e guardato quello che si poteva fare, come si poteva migliorare, arriva con la forza di un installato forte che comunque è oltre il 90% dei PC. Poi se invece Android migliorerà di molto, potrebbe invece riaprire un po' i giochi. Senti, però fino ad oggi questa interfaccia che viene utilizzata da Windows 8 e che è l'interfaccia già utilizzata da Windows Phone, quindi il sistema operativo di Microsoft per gli smartphone, in questo settore non sta facendo un grande successo. Allora uno potrebbe dire, beh, allora questa interfaccia non è poi così bella come molti tecnici e tu stesso ci stai dicendo. Questo è il classico esempio di un prodotto sottovalutato, nel senso che Windows Phone, così come Windows 8, introduce un concetto tutto nuovo di gestione, di organizzazione delle applicazioni, dell'interazione con l'utente, che secondo me è molto interessante. E cioè, faccio un esempio, per esempio quando si usa l'iPhone o l'iPad, ogni applicazione è sé stante, quindi sono tanti piccoli bariletti appoggiati su una piattaforma, a seconda di quello che si ha bisogno, se ne apre uno, si usa, si chiude, si salva il file, si interagisce in questo modo. Windows 8 e Windows Phone invece adottano un concetto di applicazione tutta connessa, quindi in realtà le applicazioni dialogano fra loro, non sono separate. Quello che viene rispettato è un percorso logico che l'utente fa nell'utilizzo del telefonino o che farà dell'utilizzo del tablet. È tutto più connesso, però torno alla domanda, Windows Phone non sta facendo grande successo? No. Perché? Perché sono usciti pochi telefoni all'inizio dell'anno, sono usciti 4 telefoni in Italia. Quindi poca offerta. Poca offerta, forse un po' sottovalutata. E poi comunque Microsoft ha un debito di credibilità, fondamentalmente. Probabilmente le persone hanno ancora in mente, fanno ancora il passaggio logico di Windows Phone a Windows Mobile. Windows Mobile non è stato proprio un gran successo in passato. Anzi, proprio per nulla. È vero, Windows Mobile era un tentativo di portare l'interfaccia Start su uno smartphone, era complesso utilizzarlo col pennino, eccetera. Windows Phone è, a parte, molto bello graficamente, va visto per essere apprezzato, ma soprattutto è molto semplice, molto interattivo, è divertente da usare. Certo, va spinto, va spiegato, va provato, perché comunque poi qui il passaparola, comunque la percezione di un prodotto rispetto a un altro, fa la differenza. Bene, io ringrazio Luca Figini per essere stato con noi, per averci disegnato questo scenario che sta trasformando il mercato. Grosso modo, quando dovrebbe uscire questo nuovo sistema operativo? 2012. Ma dura un anno 2012 però. Addirittura qualcuno ipotizza che i primi veri concorrenti su Windows 8 per l'iPad arriveranno nel primo semestre 2012. Che sono sempre lunghi 6 mesi. Quindi non si sa molto di più. Molto di più, no. Va bene, avremo tempo per ritornarci. Grazie Luca, presto, buon weekend. Arrivederci, grazie a voi. Bene, era Luca Figini, che è responsabile di portatili e tablet, che segue sempre molto da vicino questo mercato e quindi anche le novità presentate in settimana relative a Windows 8. Vi ricordo che questa puntata, come del resto tutte le puntate di 2024, sarà disponibile attraverso il servizio podcast, quindi il file MP3 della nostra trasmissione, disponibile attorno alle 17.30, 18, poco dopo la fine della nostra trasmissione. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Anche questa settimana non ci offre particolari news. Abbiamo avuto un agosto scoppiettante, invece l'inizio di settembre non ci offre molte notizie, ma anche in assenza di grandi notizie o di prodotti, gli appassionati della Apple si radunano e fanno la fila anche solo per entrare in un nuovo negozio. È quello che è successo questa mattina anche per l'inaugurazione dell'Apple Store di Bologna, nella centrale via Rizzoli, a pochi metri dalle due torri. Si tratta dell'unico Apple Store in Italia su due piani e nel centro storico di una città. Digital News. Gli altri Apple Store sono in centri commerciali fuori dalle città. Un'altra notizia riguarda Trenitalia, che ha prorogato nuovamente la promozione che offre gratuitamente la connessione Wi-Fi sui treni Frecciarossa. L'hotspot Wi-Fi a bordo del treno si aggancia poi alla rete di telefonia mobile e finora, dobbiamo dire onestamente, abbiamo fatto delle prove anche questa settimana, i principali operatori, TIM e Vodafone in primis, non hanno fatto una buona copertura della ferrovia ad alta velocità. Risultato: molto spesso cade la linea, le telefonate proprio vengono interrotte e anche la connessione Wi-Fi a bordo del treno è lenta proprio per questo problema di backup che non c'è su tutta la linea. Per questo il sistema non è ancora maturo per un'offerta commerciale, cioè praticamente non si troverebbero i clienti che pagano per questo Wi-Fi a bordo del treno. Digital News. Nokia si prepara a mettere a disposizione l'ottimo servizio gratuito Nokia Maps su tutte le piattaforme per smartphone grazie ad una nuova applicazione web. Una versione beta di questo nuovo servizio è accessibile su internet all'indirizzo m.maps.nokia.com. Arriva anche in Italia il web store di Chrome, il negozio che propone le applicazioni e le estensioni per Chrome, il browser che Google ha introdotto 3 anni fa, nel 2008. Tra le altre applicazioni c'è anche quella del Sole 24 Ore. Chrome sta crescendo molto rapidamente, noi a 2024 continuiamo a essere sostenitori di Firefox. Digital News. La società di analisi Comscore ha misurato la diffusione di sistemi operativi per smartphone in Europa nei 5 principali mercati: Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna e anche Italia. Allora, quanti sono gli utenti di smartphone e quali sono i sistemi operativi più diffusi? Ci risponde Chiara Galli, responsabile dei clienti europei di Comscore. A livello europeo vediamo 88,4 milioni di utenti che utilizzano uno smartphone. In questi 5 paesi. In questi 5 paesi, esatto. E di cui il 22,3% utilizza un sistema operativo Android al momento. Questi sono i dati di luglio 2011. Allora, voi rilevate questo 22%, che è il secondo, dietro a Symbian, che crolla dal 50, quasi 54%, al 37,8%, quindi con un meno 16%. Però rimane ancora, e io dico a sorpresa, il primo sistema operativo. Esattamente. Uno si chiede, ed Apple dove sta? Apple sta in terza posizione, quindi subito dopo ad Android. Nonostante vediamo una crescita anche nel mercato di Apple e sistemi operativi iOS, vediamo comunque questo rimane dietro ad Android. Android ha una crescita molto più veloce. Avete dei dati anche sull'Italia, immagino. Per quanto riguarda l'Italia in generale, gli smartphone sono cresciuti da luglio l'anno scorso a quest'anno del 13% e arriviamo a raggiungere 18 milioni e 3 di utenti che hanno uno smartphone in Italia. Se vogliamo poi dare un occhio ai vari sistemi operativi, Android anche qua è non a seconda ma in terza posizione con una crescita molto molto veloce. Abbiamo visto una crescita del 641% da luglio l'anno scorso a luglio quest'anno. Cioè praticamente prima non esisteva, oggi comincia. C'erano circa 500.000 utenti, adesso ce ne sono 2 milioni e mezzo. Questi dati sono interessanti perché misurano quello che c'è sul mercato, quindi non quello che esce sul mercato. Spesso ci vengono comunicati dati che ci dicono sono stati venduti tot telefoni, quindi tot sistemi operativi, invece questa è una fotografia sull'attuale. Bene, ci risentiamo tra poco, parleremo di intercettazioni dal punto di vista tecnologico. Questo è 2024, adesso le notizie del Giornale Radio. 2024. 16:09, riprende 2024 in questa seconda parte che dedicheremo alle intercettazioni. Vi ricordo il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24 poco dopo il termine della nostra puntata, quindi poco dopo le 17. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24, oppure gli SMS 349 238 6666, o anche l'email, la posta elettronica e la nostra pagina Facebook. Potete utilizzare tutte queste modalità. Naturalmente, come sapete, come vi dico spesso, preferisco sentire la vostra voce in diretta con domande su questo tema. Oggi noi ne parleremo dal punto di vista tecnologico, non entreremo in questioni politiche, non ci interessano in questa fase, in questa puntata, in questa trasmissione, soprattutto le policy, la filosofia, le regole. Cercheremo di capire che cosa può essere intercettato. Oramai le nostre comunicazioni sono digitali su più livelli: posta elettronica, instant messenger, SMS, naturalmente telefonate, tanti tipi di telefonate diverse, sui telefoni fissi, sui telefoni cellulari, con sistemi vari che transitano su internet. Vi presento i nostri ospiti. Saluto, collegato con noi da Roma, Massimo Bernaschi, che è dirigente tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR, insegna programmazione di sistema alla Sapienza di Roma e analisi dei sistemi compromessi, a due master sulla sicurezza, direi sulla security, a Roma e a Modena. Bernaschi, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bernaschi, lo ricordi, è anche un consulente ed un perito per diversi tribunali e procure come quelle di Roma, Milano, Napoli, Perugia e Palermo. In studio con noi c'è David Vincenzetti, che è CEO, dicono gli americani nel gergo tecnico, ma amministratore delegato, uno dei fondatori di Hacking Team. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi vi siete proprio chiamati in modo esplicito. Hacking Team. Assolutamente esplicito. Bernaschi, è corretto dire che tutto, io prima ho citato una serie di cose che noi facciamo, di comunicazioni, insomma, che tutti i giorni molti di noi fanno in vari modi, è corretto dire che tutto è intercettabile tecnicamente? Beh, tecnicamente direi di sì, è tutto intercettabile, può costare in termini di complessità, anche in termini proprio di spesa, più o meno a seconda del mezzo sul quale si vuole effettuare l'intercettazione, ma direi che proprio per la natura delle moderne reti di telecomunicazione e comunicazione in generale, l'intercettazione in quanto tale è praticamente impossibile impedire l'intercettazione. Quello che si può cercare di fare è di minimizzare il danno che deriva dall'intercettazione, cercando di rendere quello che viene intercettato non comprensibile da chi lo intercetta. Sì. Però l'intercettazione in quanto tale si può eliminare soltanto costruendosi una propria infrastruttura di telecomunicazioni, che ovviamente non è qualcosa alla portata di tutti, è qualcosa che richiede degli investimenti enormi e che naturalmente ha tutta una serie di implicazioni che non possono essere trascurate quando anche uno semplicemente si pensa di individuare una soluzione di questo tipo. Sì. A questo punto uno potrebbe pensare, si può intercettare tutto, email, instant messenger, sms, telefonate, ma lo possono fare solo gli addetti ai lavori, diciamo così, tecnicamente. È così o in realtà lo possono fare, non dico proprio tutti, però basta una poca esperienza e poca tecnologia per intercettare, insomma per andare a sniffare comunicazioni di altri? Ancora una volta dipende ovviamente dal mezzo che si vuole intercettare, ma direi che ci sono strumenti ormai anche dal costo estremamente limitato, che sono alla portata anche di persone che non dovrebbero effettuare intercettazioni. Ovviamente, appunto, come tu hai detto, noi non ci occuperemo dell'aspetto legale in senso stretto, però è chiaro che mentre ci sono organizzazioni che istituzionalmente possono, anzi devono, poter effettuare intercettazioni, ci sono, diciamo, singole persone, organizzazioni che non dovrebbero in nessun modo intercettare nessun tipo di comunicazione, che invece lo fanno utilizzando strumenti, ripeto, che possono essere più o meno semplici, più o meno costosi, ma che certamente sono alla portata di molte persone e di molte organizzazioni. Cioè, diciamo che passando dall'intercettazione che si può fare su una rete locale a quella che può essere l'intercettazione che si fa di un telefono GSM magari di vecchia generazione, certamente non c'è bisogno di quella che si chiama rocket science per effettuare queste intercettazioni, cioè per raccogliere il traffico, parliamo sempre di raccogliere le informazioni che sono trasmesse, poi interpretarle naturalmente dipende, se il traffico, come si dice, viaggia in chiaro, a quel punto il gioco è fatto, nel senso che una volta che ho intercettato ho le informazioni. Ad esempio, se io mando un messaggio di posta elettronica ad un mio collega, ad un amico, innanzitutto chi può leggere questo messaggio e con quale facilità? Allora, la normale posta elettronica, quella che praticamente usiamo tutti o la maggior parte di noi tutti i giorni, non ha nessun meccanismo di sicurezza intrinseco, nel senso che il messaggio viaggia in chiaro, non c'è nessuna forma di controllo neanche sulla sua integrità, quindi può essere eventualmente non solo letto ma addirittura modificato in transito. Chi può fare queste operazioni? Beh, dipende in questo caso dal percorso che fa il messaggio. Chiaramente un messaggio che per esempio viaggia all'interno di una organizzazione, quindi non so, di un'azienda o di un singolo campus universitario, fa meno passaggi, fa meno, come si dice, hop, salti. Certamente un messaggio che viaggia da un continente all'altro può fare diversi salti, e su ognuno di questi punti dove il messaggio transita, ma in maniera estremamente semplice, il messaggio può essere intercettato, quindi può essere salvato per poter essere letto, può essere, ripeto, addirittura modificato, perché non c'è nessun meccanismo associato di sicurezza. Quindi per quanto riguarda la posta elettronica, direi che la situazione è quella per cui si può considerare assolutamente insicura e, diciamo, potenzialmente anche modificabile. Poi tra poco farò una domanda che è conseguente a quello che abbiamo appena detto: come ci si fa a proteggere? Sono le 16:16 minuti, la viabilità, riprendiamo tra poco. 2024. Riprende 2024, abbiamo sentito Massimo Bernaschi del CNR che ci ha appena detto che l'email è molto poco sicura. Allora, se io voglio invitare a cena un amico o un'amica, naturalmente insomma non mi preoccupo tanto della sicurezza dell'email, ma se devo inviare un messaggio importante, un documento importante, forse soprattutto nelle aziende, nelle organizzazioni, mi dovrei preoccupare della sicurezza. Bernaschi, che cosa è necessario fare per rendere sicura questa comunicazione, rimanendo solo nell'ambito delle email? Poi possiamo anche accennare ad altri sistemi, magari alla voce, gli sms, gli instant messenger. Dunque, per la posta elettronica esistono due soluzioni diciamo affidabili, ampiamente provate e devo dire anche almeno in parte utilizzate, cioè soluzioni che hanno vantaggi anche in termini di interoperabilità, almeno fino a certi livelli, di sufficiente semplicità d'uso perché, per cui anche un utente non particolarmente esperto in informatica le può utilizzare. Queste due soluzioni sono soluzioni che sono state definite e standardizzate, si chiamano PGP, che è una soluzione abbastanza nota anche perché il suo sviluppatore originale, Fritz Zimmermann, ha avuto una storia abbastanza interessante negli Stati Uniti proprio a causa dello sviluppo di questa soluzione, e l'altra è S-MIME, o S-MIME, come uno lo vuole pronunciare, che è una soluzione sempre per la sicurezza della posta elettronica, proposta e supportata dalla RSA, che è la società che è stata fondata dalle tre persone che hanno definito uno dei meccanismi per la cifratura a chiave pubblica e a chiave privata. Sì. Queste due soluzioni sono due soluzioni che in realtà sono anche abbastanza simili tecnicamente, anche se purtroppo tra di loro non sono in effetti interoperabili. Però esistono client PGP per Windows, per macOS, per Linux. Quindi significa che se io voglio diciamo blindare la casa, vado da chi costruisce porte blindate e mi faccio installare queste porte. Se io voglio proteggere le mie comunicazioni di posta elettronica, concretamente cosa faccio? Scarico un programma, compro un programma, vado da un esperto? Diciamo che per quanto riguarda PGP certamente si può seguire la strada di utilizzare software che è ampiamente disponibile per tutte le piattaforme, come dicevo, semplice da utilizzare, quindi sia da installare che poi da utilizzare per inviare e ricevere i messaggi, per firmarli, che è anche un altro aspetto importante, cioè non solo quello di evitare che il messaggio venga letto, ma di poter anche garantire che non sia stato modificato e chi è effettivamente che lo ha inviato. PGP S-MIME anche ha una situazione abbastanza simile, cioè esistono, come si dice, plug-in, cioè piccoli blocchi di codice che uno inserisce all'interno del proprio client di posta che permettono di utilizzare questa funzionalità. Sono sistemi anche semplici da utilizzare, e l'unico elemento di cui bisogna tener conto è che per poter utilizzare la posta elettronica sicura bisogna essere in due, nel senso che io mando un messaggio cifrato e questo messaggio deve poter essere letto, e quindi anche il mio destinatario deve avere lo stesso tipo di strumento. Dico strumento in un senso generale perché appunto non deve avere esattamente lo stesso mio client di posta elettronica o il mio stesso sistema operativo installato sul suo dispositivo. Però lo standard deve essere quello lì. Lo standard deve essere quello, per fortuna ci sono solo due standard, e diciamo che, volendo fare una divisione che non è proprio precisa, però per dare un'idea, si può dire che per l'uso privato molto spesso viene privilegiato PGP, spesso in un ambito aziendale si preferisce utilizzare S-MIME perché comunque dietro c'è sì, uno standard accettato pubblicamente, ma c'è anche comunque una società che lo supporta. Brevemente, vale più o meno la stessa cosa anche per le telefonate? Cioè si possono cifrare le telefonate, quindi renderle, diciamo, non intercettabili, cioè nel senso che si possono intercettare ma non si capisce quello che viene detto? Beh, diciamo che sulle telefonate ci si sta provando a fare qualcosa di simile, nel senso che ci sono diverse soluzioni, alcune completamente proprietarie, alcune addirittura, diciamo, delle vere e proprie scatole chiuse. Beh, diciamo, in un certo senso l'esempio più noto, che molto spesso utilizziamo anche senza pensare a questo aspetto, è quello di Skype. Skype effettivamente, almeno fino a un certo livello, garantisce la riservatezza della comunicazione, però diciamo la garantisce proprio in una maniera abbastanza, dice, oscura. Cioè, diciamo, non è ben chiaro quello che succede. Lo sanno solo i ragazzi di Skype come è cifrata quella comunicazione. Diciamo che loro offrono, hanno offerto la possibilità a un esperto anche di analizzare il loro approccio, e questo esperto ha concluso che in effetti offre un elevato grado di sicurezza. Però ovviamente rimangono aperte molte domande in questo caso, cioè che cosa c'è veramente dietro, poi certo. recente acquisizione da parte di Microsoft, quindi è una soluzione che forse va un po' in quella direzione del, come si dice, security. Comunque, che non piace. Esistono effettivamente soluzioni, software per cifrare le comunicazioni. Questa mattina, facendo una ricerca, ad esempio, ho letto un po' di cose su GoldLock, che è un programma israeliano, ed è divertente un po' lo slogan, certo pubblicitario, che loro mettono sul sito. Dicono: abbiamo messo un premio di 250.000

che ci riescano, e sono convinto che riescano a farlo in maniera assolutamente invisibile dal punto di vista dell'utente finale. Diciamo che non è detto che sia sempre la soluzione a tutti i problemi, perché un utente che voglia veramente mantenere la privacy delle proprie comunicazioni può adottare delle ulteriori misure, sì. Però secondo me il vero discorso da fare è qual è il giusto compromesso tra appunto un comportamento paranoico, per cui ad esempio io un telefono uso soltanto per chiamare e quindi non posso ricevere nulla che lo possa infettare, e il comportamento di chi senza pensare minimamente a quello che fa utilizza telefono, utilizza un client VoIP, utilizza la posta elettronica, come dicevamo prima, per mandare informazioni sensibili in maniera assolutamente incontrollata. Come per tutte le cose, ci vuole un corretto compromesso tra le esigenze di riservatezza e quelle, come giustamente diceva il titolare di Agile Team, sono le esigenze anche magari delle autorità che devono effettivamente poter accedere a certe informazioni. Sì. Sentiamo Pasquale che ci telefona da Roma. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, è banale quello che sto per dire, però essendo, diciamo, tra virgolette, una azienda dei lavori in telecomunicazioni, devo dire che tutto quello che si può fare può essere disfatto, compreso il crypting e anche il decrypting, diciamo, dei dati che vengono inviati, con notevole difficoltà. Però non è questa la cosa che mi fa, tra virgolette, paura come cittadino, anche se voglio dire da parte degli onesti. È che su internet, per esempio, in diversi negozi, per esempio in Italia, si possa acquistare con notevole difficoltà dalla radiosveglia con la telecamera incorporata, all'orologio da parete con la telecamera incorporata, al software che si installa sul PC magari della collega d'ufficio e dove comodamente a casa si riceve tutto quello che la collega digita sul PC durante l'arco della giornata. Tutto questo è vendibile, tra virgolette, liberamente, ma non è usabile. Questo dice la legge italiana, cioè lo si vende sia su internet sia sui negozi, ed è spaventosa questa cosa perché autorizza tutti a operare nelle telecomunicazioni, devo dire con notevole facilità, perché non c'è una grande complessità per installare questi software anche su, per esempio, gli smartphone. Vendono dei software che costano tra l'altro circa 50 euro, poco meno di 50 euro, in cui uno sa addirittura con la localizzazione satellitare attraverso un PC dove la moglie, ad esempio, dove la figlia o chiunque, insomma, con una certezza quasi assoluta. Sì. Ecco, bisognerebbe limitare con un registro di pubblica sicurezza, insomma. Io sono un operatore professionale, quindi posso, tra virgolette, comprare questo materiale. Però certo, però... lei dice giustamente, alcune cose non dovrebbero essere alla portata di tutti. Pasquale, io la ringrazio per aver chiamato, perché ci dà modo di dire una cosa importante, che è un commento anche a questa parte della nostra trasmissione. Lo farò però tra pochi minuti, dopo la pubblicità. 2024. Riprendiamo alle 16:35 minuti. Vi ricordo che questa puntata di 2024, come del resto tutte le nostre puntate, sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro numero verde per chiamarci oggi in diretta è 824 0024. Stiamo parlando di intercettazioni, anche se il tema va al di là di questa parola. Poco fa Pasquale ci diceva c'è un sacco di roba disponibile tranquillamente su internet che permette quasi a chiunque di vedere cosa sta succedendo in una casa, di vedere se la moglie sta andando in un tal posto piuttosto che in un altro tramite servizi di geolocalizzazione a prezzi piuttosto bassi. È importante dire tutto ciò, ma è altrettanto importante, ed è anche uno degli scopi di questa trasmissione, far capire che forse in Italia c'è una cultura della sicurezza piuttosto bassa e bisognerebbe aumentare questa cultura. Vincenzetti, beh, è vero che si trova tutto ciò tranquillamente su internet, nei negozi? Sì, è vero, ci sono dei giocattolini che si possono comprare a $50 e che servono, come ha detto l'ascoltatore, per loggare, per monitorare la fidanzata, la moglie, un collega. Però sono davvero giocattolini, valgono poco. Per esempio sono identificati immediatamente da tutti gli antivirus presenti sul mercato, Symantec, McAfee, Kaspersky, quindi non valgono nulla in un contesto serio, non possono essere usati. Però è vero che se uno è uno sprovveduto, come purtroppo buona parte della, ma non lo dico in termini negativi, insomma, magari una persona che usa il computer sa poche cose del computer, a volte a me c'è qualcuno che mi chiede come si fa la chiocciola, siamo a questi livelli, ed è vero che insomma si trovano insomma queste cose online tranquillamente. Assolutamente, certo, a migliaia. Volevo salutare Pierpaolo Poli, che è titolare della Spica di Milano, una società specializzata nella telefonia a tutti i livelli di telefonia, qualsiasi cosa a che fare con il mondo dei telefoni, siano essi mobili, satellitari, fissi, VoIP, eccetera, eccetera. Pierpaolo Poli lo conosce. Oggi noi stiamo parlando di intercettazioni e una delle cose che abbiamo citato per proteggerci fino ad un certo punto, abbiamo capito, da una eventuale intercettazione è ad esempio un software per cifrare la comunicazione, vale sia per l'email, per le telefonate, eccetera, eccetera. Voi avete questi prodotti, ma lei, Poli, mi diceva che non è che ne vendete tantissimi. Ma, come diceva lei, buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, la cultura, la diffusione soprattutto di questi strumenti è molto, molto limitata. Noi li vendiamo dal 93, quindi ovviamente abbiamo un'esperienza quasi ventennale, abbiamo visto mani pulite, abbiamo visto nel corso degli anni tutte le varie serie di scandali con intercettazioni, derivanti da intercettazioni. In effetti molti degli intercettati erano clienti che noi avevamo contattato per cercare di proporre questi sistemi, ma di fronte anche a spese minime, parliamo di... giusto, quanto costano euro. Queste cose? Quanto? 250 euro era la licenza minima, cioè, inizialmente erano ancora più bassi i costi, sempre ci si sentiva dire costa troppo. Quindi è per questo che parlo di cultura, mancanza di cultura, chiaramente, perché per legge è possibile proteggersi, per legge la legge garantisce la privacy e io ho tutto il diritto di proteggermi quando parlo con qualcuno. Senta, Poli, detto in estrema sintesi, che tipo di soluzioni sono? Sono software fondamentalmente da installare sul smartphone? Software da installare sui telefonini o installare sugli smartphone, ovviamente la tecnologia è avanzata, quindi quando una volta si utilizzava il vecchio canale dati del GSM a 9.6, quindi una banda molto limitata, oggi non si usa più quel tipo di tecnologia, anche perché i gestori stanno chiudendo i canali a 9.6 dati e si passa a collegamenti via internet, quindi io ho una banda molto larga e tranquillamente eseguo le mie telefonate cifrate, protette, praticamente impossibili da decifrare, certamente intercettabili, ma come abbiamo fatto noi, abbiamo messo nel sito anche dei file audio di telefonate intercettate, ovviamente sono impossibili da decifrare, certo. Quindi con poco costo io in effetti mi proteggo. Sì, mi protegga appunto, a meno che o le forze dell'ordine o altri servizi governativi abbiano sistemi come quelli di Hacking Team, che vengono utilizzati, Vincenzetti, anche in Italia? Sì, assolutamente. Voi vendete in Italia? Sì, abbiamo quasi saturato il mercato molti anni fa, è per questo che adesso stiamo vendendo all'estero, ma in Italia lo si usa come il nostro sistema. Che viene utilizzato da che tipo di entità? Servizi segreti o polizia? Adesso non posso fare i nomi, comunque ci sono una decina di principali law enforcement agencies, istituzioni e le usano quasi tutti. Alessandro ci telefona dalla provincia di Macerata, buongiorno. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione, andrebbe fatto un'ora al giorno alla settimana, come la zanzara. E facevo due domande semplici, volevo sapere innanzitutto se è vero che quando il telefonino è in modalità stand-by, quindi una persona parla per fatti privati e diciamo la voce è intercettabile. E la seconda cosa, sempre legata alle cosiddette famose celle, eccetera, se la batteria la si stacca dall'apparecchio, chiaramente una persona, la cosiddetta tracciabilità, no? Le tracce famose si vedono sugli omicidi, queste cose qui, non dovrebbe risultare se la batteria è staccata. E la terza, una curiosità che avevo sentito della posta elettronica che è modificabile, perché mi sono sintonizzato in ritardo gentilmente, se ho capito bene, no? Quando l'email va all'estero è modificabile, pure in territorio nazionale non c'entra niente estero o non estero. Non c'entra niente, quindi per quanto concerne, sarò brevissimo, i conti correnti online, che uno magari fa le passo le cose, tutto, insomma, uno se vuole copia tutto. Io sono ignorante in materia. Adesso Alessandro rispondiamo, adesso le cose non sono così semplici e facili. Bernaschi, vogliamo dire qualche cosa sul telefono che... sì, proviamo a rispondere a questo. Io domande. Direi che se uno toglie la batteria sta tranquillo, assolutamente. Allora, se uno toglie la batteria sta tranquillo, questo è sicuro, perché il telefono, una volta che è privo di batteria, non è alimentato e quindi diventa totalmente amorfo, come se fosse, permettetevi questa immagine, un pezzo di legno. Uno potrebbe fare un discorso che ci può essere un transiente di tempo nel momento in cui toglie la batteria, però insomma, siamo su cose veramente al decimo ordine. Per quanto riguarda il discorso della posta elettronica, come hai detto, in realtà non c'è differenza. Quello che io accennavo prima vale sia che il messaggio venga trasferito, diciamo, sul territorio nazionale all'interno di un paese, oppure attraverso più paesi o attraverso i continenti. È un discorso legato proprio alla modalità di trasmissione, per cui il messaggio può essere tranquillamente alterato, diciamo, fatto transitare in modo tale che arrivi al destinatario senza il destinatario possa capire che il messaggio è stato alterato, sempre appunto se non vengono prese delle contromisure. Sì. Per quanto riguarda il discorso dei conti correnti, diciamo generalmente quello che è l'accesso cosiddetto sicuro al web, direi che è un po' emblematico di quella che è la situazione e anche il modo con cui noi la viviamo in Italia. C'è stato un lungo periodo di tempo nel quale le persone non si fidavano, come si dice, di questi meccanismi di accesso sicuro, e quindi i conti correnti online stentavano a partire, i pagamenti online non erano frequenti. Poi improvvisamente, con un certo processo, magari non troppo neanche veloce, le persone hanno cominciato ad utilizzarli, ma non perché comprendessero esattamente qual è la differenza tra l'utilizzo sicuro e insicuro, semplicemente perché in qualche modo è stata superata una sorta di barriera iniziale di diffidenza. D'altro canto, purtroppo le persone normalmente comunque non fanno attenzione alla sicurezza, e da questo punto di vista sono completamente d'accordo con quanto diceva il titolare della spiga, nel senso che non considero la sicurezza un problema, e io cito sempre questo esempio: quanti di noi, quando gli arriva la pagina dal browser in cui gli si dice che un certificato non è più sicuro e gli si chiede se vuole continuare, quanti di noi dicono no? La risposta è nessuno, cioè tutti dicono sì e vanno avanti, anche se teoricamente stanno facendo un'operazione non sicura. Quindi certamente c'è un problema, diciamo, di cultura, di comprensione di quelli che possono essere i problemi della sicurezza. Per quanto riguarda però i conti correnti, diciamo che anche un po' per tranquillizzare, dopo alcuni momenti iniziali nel quale soprattutto alcune organizzazioni non avevano affrontato i problemi nella giusta maniera, adesso insomma la situazione è tale per cui direi che le transazioni si possono considerare sicure. Sì. Però parliamo di un mondo un po' diverso, che è un mondo nel quale c'è un'entità che ad esempio una banca e un utente finale. Diverso è il discorso appunto quando si tratta di comunicazione tra utenti finali. Lì la situazione veramente invece è ancora agli albori, cioè appunto nessuno, o almeno comunque c'è una limitatissima percezione dei problemi di sicurezza di quel tipo di comunicazione. Sì, sì. Mi sento di aggiungere un ulteriore elemento di sicurezza. Io sono un grandissimo utilizzatore di strumenti online di qualsiasi genere, anche di carte di credito, non perché spenda molti soldi, ma perché cerco di limitare il più possibile il contante, e non ho mai avuto problemi. Anzi, secondo me ci sono molti più problemi nel mondo fisico che nel mondo digitale online. Sono le 16:45 minuti, riprendiamo e sentiremo tra poco Augusto da Ancona. 2024. Le 16:47 minuti, Augusto da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Volevo fare diverse domande, ma il tempo è quello che è per voi. Quindi, intanto tutto è cominciato con Echelon, mi pare, no? Volevo sapere che fine ha fatto questa tecnologia, per cui qualche anno fa se ne parlava sì. come una tecnologia totalizzante per quanto riguarda ogni tipo di comunicazione. Poi un'altra cosa, c'è prima si parlava dei cellulari, appunto, della possibilità di intercettare, eccetera, ma abbiamo letto tutti sui giornali che gli Emirati Arabi oppure altre lì in Africa, soprattutto in Arabia, c'erano dei stati che volevano vietare la vendita di questi telefonini. Non so se posso fare la marca, cioè posso dire la marca, comunque. Può dire tutto quello che vuole. Ecco, qui erano i BlackBerry, no? Sì. Che erano intercettabili praticamente, teoricamente, perché tutti i messaggi passavano nei server della BlackBerry. Quindi, ecco, volevo sapere qualcosa in più su questo anche, no? Chiarissimo, Augusto, sono domande ottime. Le giro a Vincenzetti, che io mi ero appuntato alcune cose, ad esempio sui BlackBerry, ma partiamo da Echelon. Ok, Echelon è un sistema che c'è da moltissimi anni, è assolutamente pervasivo. Esiste ancora. Esiste ancora e soprattutto è vivo e vegeto, sempre più sviluppato e sempre più potente. Echelon è un sistema di intercettazione globale, ci sono tantissime strutture diverse che lo compongono, i dati vengono raccolti in data center giganteschi, vengono utilizzati algoritmi di data mining, data di intelligence molto molto sofisticati, e tutto è avvolto nel segreto perché a capo di tutto c'è la National Security Agency americana. Sì, diciamo che gli Stati Uniti hanno un network per controllare le comunicazioni piuttosto sviluppato. Globale. Sul BlackBerry, allora, sicuramente è vero che le comunicazioni passano attraverso server controllati, ma questo poi è anche, diciamo, una delle caratteristiche del servizio BlackBerry. Dicevano alcuni server in giro per il mondo di RIM, che è la società che produce questi servizi. È più o meno sicuro questo sistema? Allora, i BlackBerry possono funzionare in due modalità fondamentalmente. Sto parlando della posta elettronica, perché la voce in realtà è intercettabile, è un telefono normale. Possono funzionare in modalità BIS oppure BES. BIS in genere è quella che utilizzano la maggior parte degli utenti e significa che la posta viene presa, viene letta praticamente da server controllati da RIM e poi viene, tra virgolette, pushata, cioè inviata sul telefono. Questa modalità è intercettabile. La modalità invece non intercettabile è quella BES, che se abilitata non può essere intercettata con i normali sistemi di intercettazione passive monitoring. E negli Emirates recentemente c'è stata una polemica che poi si è anche sviluppata in altri paesi, attualmente c'è in India per esempio, e praticamente il governo dice: se tu RIM non previeni questo problema, se tu RIM non trovi una soluzione a questo problema, noi banniamo, noi rendiamo illegali i vostri telefoni su tutto il territorio nazionale. Esiste, a vostro parere, un sistema operativo tra quelli che vengono utilizzati negli smartphone? Adesso noi oggi ci siamo concentrati molto sugli smartphone, ma poi voi le cose le fate anche sui computer, giusto? Naturalmente. Dicevo, nel mondo degli smartphone esiste a vostro parere un sistema operativo più affidabile, più sicuro? No, sono tutti sistemi operativi commerciali e quindi per loro natura sono aperti e quindi per loro natura possono essere violati. Bucati, sì. Voi siete un po' come quelli che fanno i missili o gli aerei caccia che possono essere venduti però solo ai governi, agli eserciti. Infatti noi facciamo sicurezza, IT security offensiva, cioè noi vendiamo di fatto degli strumenti che servono per fare indagini informatiche, e questi strumenti sono molto efficaci, molto così, funzionano davvero, e per questa ragione noi li vendiamo esclusivamente alle entità governative autorizzate a fare già indagini per conto loro, insomma. Bernaschi, vuole aggiungere qualcosa rispondendo anche alle domande oppure sentiamo un altro ascoltatore? Ma sì, diciamo, dal punto di vista del BlackBerry la situazione è esattamente quella che è stata descritta, quindi dipende anche, appunto, vorrei ricordare su questo discorso che dipende anche da come vengono utilizzati i dispositivi, da come vengono utilizzate le tecnologie. Insomma, mi sembra che sia importante far passare l'idea che bisogna che le persone comincino a considerare questo elemento della sicurezza. Poi, a seconda delle proprie esigenze, a seconda, diciamo, anche per esempio del tipo di dispositivi che utilizzano più di frequente, quindi appunto noi magari adesso stiamo parlando molto di smartphone, però magari ci sono persone che utilizzano molto di più il computer tradizionale per comunicare, quindi fanno ad esempio appunto anche chiamate via VoIP, ma con computer tradizionale, dove si possono fare alcune cose che si possono fare anche sui smartphone, se ne possono fare di diverse e altre non si possono fare affatto. Secondo me, ecco, l'importante è che le persone capiscano che ci sono dei problemi, che diciamo che quella che è la nostra comunicazione ordinaria è certamente non sicura, e cerchino poi il giusto compromesso. Ovviamente rimane aperto il problema di come in alcuni casi sia necessario utilizzare gli strumenti come quelli che vende l'Hacker Team per comunque forzare diciamo l'accesso anche a questi dispositivi. Sì. Però insomma, intanto l'importante è che le persone comincino a fare, per così dire, una propria riflessione sul problema della sicurezza. Esatto. Abbiamo due minuti, sentiamo Gianluca da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. Una domanda veloce, riguardo la posta elettronica certificata, ha senso, visto che si può modificare il contenuto e tutto quanto, insomma? Esatto, beh, un'ottima domanda, anche altri ascoltatori via SMS ci proponevano questo tema. Bernaschi, è sicura? Certificata No, è sicura la posta elettronica certificata? È più sicura di quella tradizionale? Allora, la posta elettronica certificata è l'equivalente di una raccomandata nel sistema postale tradizionale. Se è utilizzata nella maniera corretta, certamente aumenta di moltissimo il livello di sicurezza, quindi garantisce l'identità del mittente, garantisce l'integrità del messaggio, e dovrebbe, uso il condizionale perché il messaggio di posta certificata si può anche mandare in chiaro, dovrebbe garantire anche la confidenzialità se viene usata la cifratura. Sulla posta elettronica bisogna sempre stare attenti appunto a distinguere l'aspetto della confidenzialità da quello dell'integrità e della identità del mittente. Bene. Certamente la posta certificata è un passo avanti. Sì, abbiamo pochi secondi che li sfruttiamo per salutarci, perché tra poco arriverà GR24. Io ringrazio i nostri ospiti che sono intervenuti nella puntata di oggi. Pierpaolo Polli, che abbiamo sentito per pochi secondi collegato con noi dall'estero, che è titolare di Spica, Massimo Bernaschi del CNR, grazie per essere stato con noi, e anche David Vincenzetti, che è amministratore delegato di Hacking Team. Sono le 16:55 minuti, grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Io sono Enrico Pagliarini, tra poco la versione podcast del nostro programma sarà online su www.radio24.it. appuntamento a sabato prossimo. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.